2024 2024 di Enrico Pagliarini. Ed eccoci di nuovo insieme, bentornati a 2024. Questa settimana, da questa settimana, riprendiamo con il nostro studio da Milano dopo il CES, il Consumer Electronics Show di Las Vegas, che potremmo dire da un certo punto di vista lo abbiamo archiviato, ma molte delle cose che abbiamo visto, commentato, molte delle notizie che sono uscite dal Consumer Electronics Show ci serviranno, saranno un buon ingrediente per alcune delle prossime puntate di 2024. Questa sera parleremo non solo, ma tra poco parleremo di controllo totale della rete. Questo è un tema che sta tornando, diciamo, tra gli addetti ai lavori se ne parla sempre e spesso, ma dopo l'attentato di Parigi, dopo l'attacco terroristico di Parigi, se ne riparla, perché alcuni capi di Stato addirittura hanno fatto proprio una nota in cui ritengono opportuno un controllo più severo della rete internet. Allora, dicevo, archiviato il CES, dove lo abbiamo detto la settimana scorsa nella nostra puntata speciale, ma lo ribadisco, non si è praticamente parlato di smartphone, a parte l'annuncio, alcuni annunci, ma alcuni poco rilevanti. Diciamo, l'unico di rilievo è il nuovo Flex, il nuovo G Flex di LG, questo telefono un po' curvo. A parte questo annuncio non si è di fatto parlato, e questa è una buona cosa. Allora, per i prossimi annunci che riguardano la telefonia mobile, gli smartphone, che continuano ad essere il prodotto più venduto, se ne dovrebbero vendere quest'anno, pensate, 1,5 miliardi, quindi un mercato incredibile, una tecnologia oramai disponibile a bassissimo prezzo, perché stiamo parlando di smartphone che hanno tutte le caratteristiche di uno smartphone: un sistema operativo, una serie di sensori che permettono ad alcune applicazioni di ritrovare la strada, di sapere dove ci troviamo e tantissime altre cose, come ci muoviamo noi personalmente, se stiamo correndo o se stiamo fermi. Insomma, tutte queste caratteristiche a prezzi oramai che sono ampiamente inferiori ai $100. Quando si parla di mercato internazionale ci si riferisce in dollari. Tra poco parleremo appunto anche di questo tema. Allora, molti annunci sono previsti alla prossima mega fiera, alla prossima grande fiera, cioè il Mobile World Congress, che tornerà a Barcellona all'inizio di marzo. Quindi, per quanto riguarda gli smartphone, molte notizie usciranno da Barcellona. Allora, questa settimana invece si è parlato di computer, di PC. Perché? Perché sia Gartner che IDC, che sono due grandi società di ricerca, hanno pubblicato le stime sulle vendite di computer nell'ultimo trimestre dello scorso anno. Stiamo parlando di stime mondiali, ma ci danno un'idea, al di là dei numeri precisi, di quello che sta succedendo. Allora, secondo Gartner il mercato fa più 1% e cresce per la prima volta dopo 2 anni di flessione. Alcuni dicono che le vendite di computer, si può dire la stessa cosa per quanto riguarda le vendite di processori, di server, sono un segnale, uno dei tanti segnali, ma un segnale sicuramente molto interessante dell'andamento dell'economia. Se si vendono più computer significa che le aziende investono in tecnologia. Stiamo parlando di dati mondiali e quindi non facciamo delle analisi rispetto al singolo paese. Allora, secondo Gartner il mercato cresce dell'1%, secondo IDC il mercato invece torna a perdere quota, -2,4%, comunque già un dato indicativo che una delle due di queste grandi società internazionali che fanno analisi sul mercato dei computer dice che qualcosa si muove. Poi i panieri utilizzati da queste società sono diversi, quindi bisognerebbe poi andare ad analizzare nel particolare. Ci sono altri dati interessanti: Lenovo continua a essere il numero uno con una quota di mercato che è vicina, che sfiora il 20%, 19,9% per IDC, 19,4% per Gartner. HP cresce tantissimo e torna ad avvicinarsi a Lenovo, quindi le quote di mercato secondo delle società vanno tra il 19,7 e il 18,8. Poi nella classifica c'è Dell, la raccontiamo perché forse non tutti sanno qual è la classifica dei grandi produttori di computer. Dell al terzo posto con una quota attorno al 13%, Acer circa 8%, Apple è quinta nel mondo secondo IDC con una quota del 7%, mentre per Gartner al quinto posto c'è Asus con il 7,5%. un terzo del mercato, grosso modo 33-34%, è fatto da produttori minori, quindi anche in questo caso continua ad esserci una frammentazione incredibile. Allora, perché secondo Gartner aumenta il numero di computer venduti nel corso in questa ultima parte dell'anno? Dovuto al fatto che l'effetto di sostituzione dei PC con i tablet, io l'ho detto varie volte, da quando ho un tablet uso pochissimo, o comunque non ho comprato un computer portatile nuovo. Questo è sicuramente un dato indicativo. Quindi c'è sicuramente questo effetto di sostituzione dei PC con i tablet che si è rallentato negli ultimi tempi e si sta quindi tornando a comprare computer, e anche forse perché molte aziende sostituiscono vecchie macchine con Windows XP. Ultimo dato e ultima nota, poi passiamo alle nostre digital news, che riguarda il mondo dei computer. Proprio poche ore fa sono arrivati i numeri di Intel, che ha messo a segno un fatturato per il 2014 pari a 55,9 miliardi di dollari, con un utile, attenzione, gli utili di Intel sono sempre incredibili, di 11,7 miliardi di dollari. 11 miliardi,7 di dollari. Queste utili di questa grande azienda, il più grande produttore di processori. Il fatturato della divisione PC è salito del 4% rispetto al 2013, fatturato dei data della divisione data center più 18%, Internet of Things, cioè una divisione di Intel che si occupa di Internet of Things, è vero che vale ancora 2,1 miliardi, ma è salito del 19% rispetto allo scorso anno, suo scorso 2013, e il fatturato della divisione mobile, quindi i prodotti per gli smartphone, che praticamente per Intel non valgono quasi nulla, sono 200 milioni di dollari, si sono ridotti dell'85% rispetto al 2013. Quindi questa azienda fa così tanti utili, così un fatturato così elevato, pur non essendo praticamente presente nel settore mobilità, dove molti di voi sapranno esiste un'architettura su tablet, prevalentemente sugli smartphone, ma anche su tablet l'architettura dei processori è ARM, questa azienda che rilascia le licenze per azienda inglese che rilascia le licenze, poi chi vuole, i vari produttori, che ne so, Samsung, Qualcomm, Apple stessa, producono i processori rispetto a questa architettura. Normalmente non diamo i dati delle trimestrali, ma in questo caso è un dato che ci dà alcune indicazioni sull'andamento del mondo dei computer, che, come dicevo poco fa, è anche un piccolo sensore di quanto va e di quanto si muove l'economia. Questi sono dati naturalmente globali, quindi poi bisognerebbe andare a fare un'analisi paese per paese, ma questo richiederebbe più tempo e bisognerebbe entrare nel particolare. Adesso abbiamo le nostre digital news. Digital news. Notizie in breve della settimana. Iniziamo dalla Rai, che ha annunciato che entro l'estate i canali Rai Sport saranno fusi in uno solo e sarà HD. È una buona notizia per l'etere italiano, che ha pochissimi canali in alta definizione, questo lo denunciamo spesso, mentre il parco di televisori che possono visualizzare canali in HD è ormai molto ampio. Molti italiani hanno televisori che possono vedere canali in HD, ma sul digitale terrestre sono pochissimi, quindi ben venga, e anzi vorremmo che tutti i canali Rai fossero, essendo servizio pubblico, in alta definizione. Google ha deciso di ripensare completamente il progetto Google Glass. Quelli che abbiamo visto finora non andranno mai sul mercato, e per tentare di costruire qualcosa di bello, più bello e nuovo, comunque che piaccia ai consumatori, è stata creata una nuova divisione. Quindi Google continua a credere nel wearable device, quindi nella tecnologia da indossare nella forma dell'occhiale. Allora, questa nuova divisione sarà guidata da un personaggio piuttosto interessante, perché in Apple ha creato l'iPod, poi è uscito, ha fondato Nest, che è un termostato intelligente che è stato poi comprato da Google, questo Tony Fadell, quindi ha fatto un sacco di soldi, adesso lavora a Google a questo nuovo progetto. Digital News. News. Altre due notizie arrivano da Google. La prima riguarda Project Ara, lo smartphone modulare che si costruisce come una sorta di Lego, pezzettini. Allora, verrà lanciato con un progetto pilota da Puerto Rico entro l'anno. I moduli si compreranno, pensate, da alcuni furgoni che vendono cibo in strada, dotati di stampanti 3D per personalizzare il telefono. Quindi uno va, compra un panino e anche i moduli del telefono. Dice, ah, voglio il modulo, è quello principale, insomma, che fa funzionare tutto lo smartphone. Poi voglio il modulo display fatto in un certo modo, il modulo wifi, oppure voglio il modulo fotocamera e compongo il mio smartphone. Me lo mettono insieme in modo molto veloce, proprio come i pezzetti del Lego, a conferma del fatto che ormai la tecnologia disponibile per produrre smartphone è veramente a basso costo. Vedremo se questo sarà un progetto che avrà successo o farà la fine dei Google Glass, almeno quelli che abbiamo visto finora, che certo di successo non hanno fatto nemmeno un pochettino. Però l'altra notizia che riguarda Google è l'ampliamento delle funzioni del traduttore, che dovrebbe diventare più veloce e automatico, quello che possiamo utilizzare su smartphone, tablet e anche sul computer. Però non bisognerà più dire al traduttore traduci dall'italiano o da qualsiasi altra lingua, perché il sistema dovrebbe riconoscere la lingua di partenza. Dovrebbe poi andare sperimentato, dovrebbe essere imminente l'arrivo di questa novità. Altra funzionalità è la traduzione di un testo inquadrato da una videocamera di uno smartphone. Quindi io metto la videocamera davanti a un testo, lui dovrebbe tradurre velocemente. È un dato interessante perché le tecnologie di riconoscimento vocale, di assistenza vocale, di traduzione sono basate su intelligenza artificiale e sono dei campi applicativi più promettenti per i prossimi anni. Dopo 1000 annunci, Samsung ha finalmente lanciato, per il momento solo in India, lo Z1, il primo smartphone basato sul sistema operativo Tizen. Il lancio si inserisce nella serie di tentativi di vari produttori di smarcarsi almeno nella fascia low cost da Android. Stiamo parlando di uno smartphone che costerà $75, quindi per smarcarsi da Android e soprattutto dallo strapotere e il ricatto di Google. Facebook vuole fare come Microsoft, che continua a spingere su Yammer, il social network pensato solo per il mondo del lavoro. Allora, da questa settimana Facebook At Work, così si chiama questo nuovo progetto, è in test, o almeno è stato annunciato questa settimana, magari lo è già da un po' di tempo. L'idea di Facebook At Work è quella di condividere la logica del social network, ma di tenere separate le informazioni di lavoro da quelle personali. Digital News. Bene, adesso noi abbiamo finito con le nostre Digital News e quindi noi adesso vi presento fra poco il nostro ospite. Un'altra notizia che però vorrei aggiungere è relativa allo strapotere e il ricatto di Google. Allora, una cosa che abbiamo visto al Consumer Electronics Show è una esplosione di tecnologie di assistenza alla guida, non solo di automobili automatiche che arriveranno fra qualche anno, ma sicuramente un sacco di tecnologia che sta già disponibile in alcuni casi, ma che sta arrivando prepotentemente sulle automobili. Allora, sapete che a proposito di connected car, quindi di auto connessa, e per auto connessa intendiamo sia la connessione del nostro smartphone con il veicolo per poter avere, che ne so, i contatti, ma questa è una cosa che abbiamo già da tempo, ma oppure le nostre applicazioni sul cruscotto invece di usare lo smartphone, che è una fonte di distrazione. Un primo livello di connettività è quella di connettere lo smartphone con il sistema di bordo dell'automobile. E poi c'è anche il tema della connettività con la rete internet, quindi l'auto connessa alla rete internet che può scambiare dati con vari servizi. Allora, sul primo livello di connettività si stanno facendo la gara tre scenari. Un primo scenario è un sistema operativo fatto dalla casa automobilistica, che noi abbiamo sul cruscotto per comandare alcune funzioni e alcune funzioni anche dello smartphone. E poi c'è il sistema operativo per la casa, per l'automobile, scusate, fatto da Apple, e il sistema operativo fatto da Google. Quindi anche nelle automobili ci sono queste due proposte. Allora, è notizia di questa settimana che BMW si è lamentata, ma secondo fonti nostre lo sta facendo anche Audi e anche altre case automobilistiche, delle troppe richieste, dei troppi dati che Google vorrebbe, perché in cambio di questo sistema operativo che va installato sulle automobili e che quindi permette di connettere lo smartphone e di trasferire alcune funzionalità dello smartphone sul sistema di bordo, Google chiede una serie di dati. A che velocità sta andando là? Adesso cito dati così senza sapere poi quali esattamente Google ha chiesto alle varie case automobilistiche, comunque di dati che l'automobile crea ce ne sono tantissimi, sono decine, e Google ne vuole sapere alcuni: a che velocità sta andando l'automobile, dove si trova l'automobile, se ci sono i fari accesi o spenti, bla bla bla, tutti questi dati. Quindi c'è un problema anche per le case automobilistiche che si trovano di fronte a queste richieste, e molte case automobilistiche dicono: no, noi questi dati non te li mettiamo a disposizione. Vedremo come si evolverà anche questo scenario molto interessante. Matteo Flora, benvenuto 2024. Ciao, grazie dell'invito. Sulla tua automobile hai già dei sistemi di connettività a bordo? Sì, tantissimi, immagino. Considerando il background e l'estrazione da cui arrivo, meno cose elettroniche ci sono sulla mia macchina, più felice sono. Riesco a tollerare a malapena il car entertainment system e l'ABS, ma quelli sono vitali. Perché tu sai che qualcuno ti potrebbe hackerare la macchina? No, perché io ho la certezza di avere tra i miei contatti amici che ne sono in grado. Ecco, questo infatti è un altro problema e un altro scenario. Allora, Matteo Flora è fondatore di The Fool, che è la sua società, ma Matteo Flora è, al di là della sua società che si occupa di tante cose, non solo di sicurezza, di social network, di gestione della proprietà intellettuale, poi l'elenco potrebbe andare molto molto in là, diciamo tu sei appunto, al di là della tua azienda, un esperto di sicurezza e di tante cose che accadono sulla rete internet. Allora, io ti ho invitato questa settimana per fare una sorta di punto della situazione, di quello che sta succedendo dopo l'attacco terroristico di Parigi, perché proprio partendo da qui, da questo attacco, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che alcuni capi di Stato, in primis David Cameron, quello britannico, si sono detti pronti a bloccare quei servizi che non permettono l'accesso delle informazioni alle forze dell'ordine, all'intelligence, eccetera eccetera. Va detto e va ricordato che le grandi aziende della rete si sono date molto da fare negli ultimi mesi per attivare sistemi di cifratura dei messaggi per renderli illeggibili da terze parti, ma soprattutto dallo Stato, dalle forze di polizia, dall'intelligence. Tutto questo soprattutto dopo che Edward Snowden un paio di anni fa aveva svelato che molte aziende che offrono servizi su internet, facendo anche dei nomi piuttosto famosi, andavano a braccetto con la NSA, cioè aprivano le porte della National Security Agency americana laddove ci fosse bisogno di scoprire qualche informazione. Prima domanda che ti faccio, Matteo: questi annunci degli ultimi mesi di molte aziende che dicono adesso la posta elettronica che voi utilizzate con i nostri sistemi, adesso il sistema di messaggistica che voi utilizzate con il nostro sistema è protetto e nessuno lo può intercettare, è vero o è una boutade del marketing? Allora, innanzitutto il problema è un po' più complesso di quello che tu hai significato, perché nella realtà dei fatti alcune aziende sì, in effetti andavano a braccetto con l'NSA, ma nelle altre in cui l'NSA non andava a braccetto, semplicemente i dati venivano prelevati forzosamente agganciandosi alle dorsali oceaniche senza che nessuno lo sapesse, a volte anche agganciandosi ai data center delle aziende prima che la cifratura entrasse in gioco, era il caso di Google, e addirittura impoverendo artificiosamente alcuni sistemi di cifratura che erano stati lanciati come standard. Quindi nella realtà dei fatti ci si è trovati in una posizione in cui l'NSA aveva accesso a buona parte dei dati che transitavano sulla rete, buona parte intendo la stragrande maggioranza di questi dati, uno scenario apocalittico non tanto per l'NSA in sé, anche se dal mio punto di vista di paranoico già questo è apocalittico, ma per il fatto che dove entrava l'NSA potenzialmente sarebbe potuto entrare qualunque altra forza di intelligence al mondo, perché quando lasciamo la porta sul retro aperta non la lasciamo solo per gli amici, tecnicamente la lasciamo anche per i nemici. Quindi in questi ultimi mesi, questo ultimo anno, quasi tutte le grosse aziende della rete si sono dotate di sistemi di cifratura forte. Ora, cifratura forte ricontrollata da parecchi esperti e abbandonando quelli che erano gli standard che erano stati spinti dall'NSA. Quello che ne è derivato ovviamente è un sistema che è by design, per scelta, per creazione, ad oggi non craccabile, quindi sicuro per definizione. Ovviamente questo si scontra spesso e volentieri con delle operazioni di polizia che venivano fatte principalmente da stati che erano legati a Stati Uniti e Inghilterra, dove i vari servizi segreti, si è scoperto, collaboravano a volte lecitamente, a volte no, all'interno di indagini e fornivano dati che dovevano essere recuperati teoricamente solo a scopo di intelligence, ma nella pratica anche per indagini normali, tante volte cozzando con quelli che erano i limiti imposti dalla legge e dal mandato del giudice. Quindi mi stai dicendo che effettivamente questi annunci che sono stati fatti negli ultimi mesi sono veri, o comunque sono verosimili, cioè i sistemi di cifratura che quasi tutte le grandi aziende della rete internet hanno inserito all'interno dei propri servizi ci proteggono da se io scambio una mail con te, la National Security Agency non riesce a vedere il contenuto. Allora, questo potrebbe essere un po' un sovrastimare, ci sono lo stesso modi di attacco e di entrata, però in questo caso il veicolo d'attacco dovrebbe essere compromettere il mio computer di casa o il tuo computer. Il transito dei dati, cioè il pezzo che va dal mio computer, dall'inizio del troncone della mia rete fino al troncone della tua rete ultimo tuo, è protetto ed è cifrato, questo sì. Perché questo? Perché in questo modo si evita che si possano creare sistemi di analisi del traffico a strascico, cioè che io possa controllare centinaia di milioni di comunicazioni simultaneamente, ma se vi è una necessità di polizia si deve intervenire su quelli che sono i dispositivi reali che vengono utilizzati da quelli che sono sotto le persone sotto indagine. Sì. Non è facile in questo punto prendere chiunque dica la parola Allah o chiunque dica la parola invece Jesus. Sì. È vero che questi sistemi, alcune aziende lo dicono esplicitamente, anche nel momento in cui venissero intercettati, diciamo, io metto le mani sul messaggio di posta elettronica, in realtà non lo riesco a leggere nemmeno se mi rivolgo alla società che ha fornito il servizio di posta elettronica, perché le chiavi di accesso non ce le ha nemmeno la società, quindi solo io e te. Esistono servizi che fanno questo sistema di doppia cifratura, dove in realtà l'azienda memorizza all'interno, oddio, è un po' più complesso di così. È sempre più complesso, però invece noi lo dobbiamo fare un po' più semplice. Cerchiamo di farlo semplice. Esistono due principali famiglie di modi per cifrare le cose. In uno di questi io uso lo stessa password per cifrarle e decifrarle. È quello che facciamo quando mettiamo una password magari a un archivio compresso. Un altro di questi sistemi, quello che normalmente viene utilizzato, si chiama chiave pubblica e privata. Cioè io devo avere una coppia di chiavi. Se io uso la chiave pubblica posso cifrare verso chiunque di quelli che ho la chiave pubblica, ma solo con la mia chiave privata io riesco a decifrare. Quindi che cosa fa il servizio? Cifra ogni mail che arriva per me nel momento stesso in cui arriva con la mia chiave. In questo modo solo io che ho l'altro pezzo della chiave necessaria e che la mia azienda di posta elettronica in questo caso non possiede, solo io posso decifrarlo. In questo modo nemmeno loro sono in grado di decifrare, ed è tra l'altro uno dei sistemi più sicuri anche a livello di sicurezza personale di chi gestisce questi servizi, perché l'unico modo di evitare di trovarsi sotto casa qualcuno con una pistola in mano che ti dice deciframi la posta di questo tuo utente, altrimenti ti faccio saltare la testa, l'unico modo per proteggersi da questo scenario è il fatto di avere un sistema che è conosciuto e notorio, che è impossibilitato a decifrare. Sì, un po' come quando si legge, cioè diciamo il principio è un po' quello che si legge quando si va in banca e c'è scritto i cassieri non possono aprire la banca, quindi anche lì se uno va con la pistola sono impossibilitati a farlo tecnicamente. Esattamente, è un sistema di protezione, sì, sì. Protezione anche per chi gestisce un servizio, sì. Perché ricordiamoci che può arrivare certo l'NSA, può arrivare certo una forza di polizia, ma possono arrivare anche tante altre realtà che così legittime, così legali non sono, certo. Soprattutto quando parliamo di contesti di rischio, di paesi diversamente democratici, di paesi in cui la democrazia non esiste proprio o di sistemi in cui è in atto una rivolta, o se parliamo di whistleblowing, se parliamo di rilasciare informazioni riservate, l'anonimato, la protezione, la cifratura devono essere qualcosa di fondamentale e di inalienabile, quasi come fosse un diritto fondamentale. Esatto, fra poco parliamo più approfonditamente di questo, anche per capire quanto la tecnologia può mettere sotto controllo tutto il sistema internet. La Cina è un esempio piuttosto eclatante, ma la Cina è uno stato con dei confini, un altro conto è il mondo dove i confini, soprattutto della rete internet, sono un po' complessi, perché questo è un po' il tema. Alcuni capi di Stato hanno detto noi crediamo che sia necessario intervenire per mettere sotto controllo la rete internet, e alcuni dicono ma io non ho nulla da nascondere, che problema c'è dare i dati alla National Security Agency? Torniamo con Matteo Flora tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, vi ricordo che potete comunicare con noi anche attraverso Twitter, Facebook, la posta elettronica, e quindi ci sono varie modalità per entrare in contatto, per anche una semplice considerazione sulle nostre puntate o come fanno molti dei nostri ascoltatori per suggerire un tema per una delle prossime puntate. È con noi Matteo Flora, che è fondatore di The Fool, si occupa di sicurezza informatica, ma tu Matteo non ti occupi solo di sicurezza tecnicamente parlando, ma anche dei diritti che devono essere tutelati sulla rete internet. Questo è un tema che ti sta a cuore ed è anche uno dei motivi per cui ti ho invitato, oltre alle competenze tecniche. Però prima di parlare di questo ti faccio una domanda sulla tecnologia, cioè è ipotizzabile un sistema di controllo della rete mondiale che appunto possa tener traccia e accorgersi di tutto quello che succede? Già oggi sappiamo benissimo che ad esempio se una forza un'intelligence internazionale traccia la mia voce e io da qualsiasi telefono faccio una telefonata, posso essere tracciato grazie ad esempio al riconoscimento vocale, quindi già ci sono delle tecnologie di controllo globale. Però qui stiamo parlando non solo di voce e di telefonate, stiamo parlando di messaggi sui social network, messaggi di posta elettronica, messaggi su anche reti che vanno al di là della internet che conosciamo. Matteo. Beh, allora, sfortunatamente parlando non abbiamo più il dubbio che questo tipo di sistemi esistano, ma ne abbiamo la certezza. Ormai i dati che sono filtrati dall'NSA grazie a Edward Snowden, mai santificato abbastanza, ci dimostrano come queste tecnologie non solo siano ipotizzabili o possibili, ma siano già messe in opera per tutte quelle parti della rete che non sono sufficientemente protette da crittografia. Quindi nella realtà dei fatti noi conosciamo anche i nomi di alcune di queste tecnologie, sappiamo che vengono utilizzate per recuperare a strascico informazioni e sappiamo che tutto questo è stato fatto anche in maniera massiva negli ultimi anni, in barba tante volte alle varie norme anche internazionali. Il problema di chi come me lavora da tanti anni nel mondo dell'informatica è che un paio di anni fa, quando Snowden ha fatto uscire i suoi documenti, abbiamo vissuto un momento di profonda crisi. Siamo passati dall'andare a letto la notte prima in cui eravamo quei disgraziati paranoici con tutte le sturbe mentali di questo mondo che venivano additati come quelli che sa Dio perché dovrebbe esserci una cosa del genere, e ci siamo svegliati la mattina come novelli Cassandra. Ti assicuro, non è stata una sensazione piacevole, avremmo tutti volentieri fatto a meno di tutto questo, ma ora che lo sappiamo, chiudere gli occhi è semplicemente ipocrita. Senti, ma Matteo, per quale motivo non dovremmo dar ragione a quelli che dicono ma io non ho nulla da nascondere e quindi ben vengano, comunque non mi preoccupo di questi sistemi? La stessa cosa alcuni la dicono di fronte ad aziende gigantesche della rete che utilizzano i nostri dati per profilarci e per poi fare business sui nostri dati. Uno dice: ma io non ho nulla da nascondere, utilizzo questi servizi gratuitamente, quindi cedo tutti i miei dati. Allora, ci sono tre ordini di risposte che posso darti, dal più semplice al più complesso. Partiamo dal più semplice. Il più semplice è: prendi una persona che ti fa questo tipo di discorso e chiedigli cortesemente di rimuovere le tendine dalle finestre, di lasciare aperta la porta del bagno e di lasciarti stare davanti e controllare che cosa fa. Perché alla fine della fiera è quello che sta succedendo. Perché c'è una porta davanti al bagno di casa tua? Perché metti le lettere in busta chiusa? Perché nella realtà dei fatti metti le tende alle finestre? Perché la privacy è un qualcosa che ogni essere umano richiede ed è un diritto fondamentale, tant'è che una delle prime definizioni di privacy nel mondo anglosassone è quello the right to be left alone, il diritto di essere lasciato da solo. Ora, questo diritto viene infranto nel momento in cui la mia vita digitale viene aperta, perché tutto quello che io faccio nel mio domicilio digitale, nel mio domicilio informatico, viene sotto gli occhi di, nella migliore delle ipotesi, una forza di polizia, ma è stato ampiamente dimostrato anche in grosse realtà internazionali che tu citavi, che tutti i dipendenti hanno utilizzato ed abusato di questi sistemi per pubblicare le foto da nuda della ragazza che aveva solo sul cellulare, le mail imbarazzanti mandate alla collega o anche solo i miei pensieri privati su determinati argomenti. Questo è il primo livello. Il secondo è quello che ora noi sappiamo, alcuni di questi partner che fanno ricerca e che sono all'interno di questo network internazionale che si scambia informazioni, che cosa fanno? Quindi NSA e servizi inglesi, forse servizi australiani. Però, vedi, nessuno, ad esempio, al metà del 1939, nessuno si preoccupava in Germania se il suo nome finiva all'interno delle liste degli ebrei di una particolare sinagoga, perché nessuno vedeva un problema nel fatto di essere recensiti. Il problema è nato quando? Quando questa è diventata un'informazione sensibile. Ora, noi non sappiamo che cosa succederà da qui ai prossimi 10 anni, 20 anni, 50 anni, 100 anni. Non sappiamo se verranno schedati i nostri nipoti per cose che abbiamo fatto noi. Non lo sappiamo perché, al contrario di altre informazioni, non esiste un'obsolescenza di questo tipo di informazioni. Saranno conservate ad eterno e utilizzate contro di noi chissà quando, magari quando andremo a dare fastidio a un determinato tipo di realtà. E la terza è che senza la crittografia non esisterebbe, non ha la possibilità di esistere, tutto quello che è l'attivismo in paesi che in questo momento non godono di democrazia. Tutti i paesi che hanno fatto la rivolta digitale, quella cosa che noi conosciamo come primavera araba, non avrebbe avuto ragion d'être senza la crittografia, perché semplicemente in quei paesi in quel momento vigeva un sistema di largo controllo della rete. Quelle persone che sono state intercettate ad utilizzare metodi non sicuri sono state semplicemente massacrate in casa loro, perché è ovvio, nel momento in cui io so che i rivoltosi utilizzano un certo tipo di mezzo di comunicazione, perché non intercettarli e andarli a prendere a casa? La creazione, la presenza e la messa in opera di sistemi di sicurezza è vitale, ma la cosa divertente è che mentre Cameron fa queste affermazioni per cui dice dobbiamo bloccare la crittografia, uno degli ultimi documenti che sono filtrati, segretati dal governo degli Stati Uniti, definisce la crittografia come necessaria per la sopravvivenza della democrazia stessa. Perché? Perché è l'unico modo in cui anche i governi hanno la possibilità di tutelarsi. Questo, guarda, rigirandoti un secondo, è l'ultimo hint che ti do. Non solo non è utile il fatto di bloccare la crittografia, ed è stupido da molti punti di vista, è anche tecnicamente impossibile. Perché è impossibile? Perché siamo davanti a una scelta diabolica. Tutte e due le scelte che possiamo fare ci portano a perdere, perché o blocchiamo i sistemi di crittografia per tutti, e quindi nemmeno i militari avranno sistemi crittografici, e puoi solo immaginarti quanto è assurdo un sistema che non abbia, che veda dati militari scambiati non cifrati, o se no dobbiamo pensare che il nostro divieto di utilizzare determinati tipi di tecnologia di cifratura venga ovviamente rispettato dai terroristi. Se noi vietiamo la crittografia, non otteniamo che i terroristi non usino più la crittografia, ma otteniamo il fatto che solo i terroristi useranno la crittografia. Bene, grazie a Matteo Flora per essere stato con noi. A presto, Matteo. Grazie a voi dell'invito, buona serata. E pensiamo di avervi dato alcuni spunti di riflessione. Naturalmente non abbiamo dato tutte le risposte, potremmo parlare per ora. Adesso cambiamo argomento, parliamo di tecnologia e di lavoro, a proposito di una delle richieste che ci è stata fatta da alcuni ascoltatori, e saluto David Orman, che è advisor alla Singularity University. Benvenuto, anzi bentornato 2024. Ciao Enrico. Tu, oltre a insegnare alla Singularity University negli Stati Uniti, per indagare e scoprire che cosa succederà nel futuro prossimo ma anche remoto, sei amministratore delegato di DotSub, e vorrei proprio partire dalla struttura di questa azienda per parlare del tema di questa settimana. Voi non avete sede, o comunque avete una sede limitatissima. La sede legale di DotSub è a New York, a Manhattan, così come richiesto dalle leggi, e per il resto tutte le nostre persone lavorano dove vogliono. E quando tu fai un annuncio di lavoro? Lo faccio in tutto il mondo, senza restringendomi artificialmente a cercare il talento di cui ho bisogno in un raggio ristretto. E prometti e garantisci che possono lavorare da ovunque? Io... l'unica cosa che gli impongo è che abbiano una connessione internet veloce ed affidabile. Sì, e quante persone lavorano a DotSub? Abbiamo meno di 50 persone. Attualmente. Ricordiamo anche che cosa fate, perché giustamente alcuni ascoltatori diranno: ma che cosa fanno questi? DotSub si occupa di video online, permettiamo ai motori di ricerca di indicizzare il video per l'intero contenuto parlato, e alle persone di ritrovarlo quindi con le interrogazioni in ogni lingua possibile, vedendoli poi sottotitolati nella loro lingua. Sì, perché uno dei problemi è che i motori di ricerca non leggono il video. Cioè è come una scatola nera, sì. Leggono il titolo, magari una breve descrizione, ma non riescono a entrarci. Esatto, se nel video parliamo di... futuro del lavoro. Esattamente, il motore di ricerca non lo sa, e con la tecnologia di DotSub voi traducete in parole scritte tutto questo e lo mettete a disposizione del mondo della ricerca, insomma dei motori di ricerca. Detto questo, è interessante capire quali sono, tu sei un grande sostenitore della possibilità di lavorare ovunque, ci sono altri pareri, ma visto che noi ci occupiamo di tecnologia, è bene che raccontiamo quello che la tecnologia ci permette di fare, quali sono i vantaggi, soprattutto immagino per un settore che non deve necessariamente toccare le cose con mano, chiaramente l'idraulico, il falegname, insomma chi deve produrre cose non può lavorare da qualsiasi parte del mondo. E oggi nel XXI secolo, ricordiamoci dove siamo, sì. E la struttura di ogni nazione in termini di lavoro può essere suddivisa in tre grandi categorie. Circa il 2% della popolazione produce il cibo necessario per nutrire il 100%. Circa il 30% della popolazione produce i beni materiali necessari per soddisfare le esigenze dei beni materiali del 100%. E siamo a meno di un terzo della popolazione? No, siamo a meno di un terzo della forza lavoro. Giusto, sì. E il resto della popolazione o non lavora in termini tradizionali, una casalinga naturalmente lavora, altro che... Certo. E un disoccupato vorrebbe lavorare, altro che... Ma quelli che lavorano fanno quello che viene chiamato servizi, lavorano nell'economia dei servizi, e una gran parte di questi servizi in effetti può essere eseguito, erogato indipendentemente da dove il beneficio di questo servizio si manifesta. Quindi puoi essere in un posto e registrare un'intervista radio e l'ascoltatore è da un'altra parte. Sì, senza il telefono, perché col telefono questo si può fare, ma diciamo migliorando comunque la qualità dell'audio uno può anche essere ovunque nel mondo. E ci deve essere l'infrastruttura adeguata. Esatto. Quindi se io ho ho i miei raggi X che vengono diagnosticati in India, quei raggi devono essere trasferiti alla risoluzione elevatissima necessaria, sì, perché il medico indiano veda tutto. Allora, ci sono settori dove le cose che stiamo dicendo non sono certo una notizia. Tra i blogger, i web designer, quelli che si occupano di social media marketing, lavorare in remoto è praticamente lo standard. Esatto. Adesso ci fermiamo per un minuto, Davide, riprendiamo tra poco. Riprendiamo questa puntata di 2024, la nostra ultima parte. Con noi David Orban, stiamo parlando di lavoro senza una sede fisica, o lavoro remoto. Certo, non bisogna essere talebani in assoluto, io sono per le mezze misure, però sicuramente molto si può fare. Dicevamo poco fa che alcuni settori, alcune professioni lavorano senza sede, da qualsiasi sede, e questo è normale. C'è però un pezzo di economia, David, che potrebbe usare queste tecnologie per fare lavorare le persone in remoto, anche conciliare alcune esigenze della vita, ma ancora non lo fa. Qual è il problema? L'organizzazione aziendale spesso è impostata sulla delega del controllo, e chi è delegato per controllare a sua volta deve giustificare la propria esistenza, e quindi spesso in una situazione intermedia ha bisogno di esercitare questo controllo in termini eccessivi. Anche se devo dire, anche nelle grandi aziende dove la gerarchia strutturata è la norma, gli esperimenti di telelavoro sono già 20 anni che si fanno. Uno dei più grandi esperimenti è stato fatto nel 1996 ad Atlanta, dove durante le Olimpiadi grandi aziende come Coca-Cola o Bell South, se era quello il nome della società di telecomunicazioni allora, si erano organizzati perché una gran parte del loro personale non dovesse venire al lavoro durante le Olimpiadi, e l'esperimento è andato bene, e quando le Olimpiadi sono terminate hanno continuato a dare l'opzione alle persone di rimanere a casa. Sì, molte aziende americane fanno questo. E immaginati, 20 anni fa non c'era l'infrastruttura a banda larga che oggi è universalmente disponibile, o i personal computer così potenti come li abbiamo oggi, o le piattaforme software di collaborazione che anche a livello aziendale permettono di essere presenti, videoconferenza e sì, quant'altro. Sì, oggi la tecnologia è ampiamente disponibile per fare questo. Allora, ci sono degli indubbi vantaggi, pensiamo alla non necessità di doversi spostare litigando nel traffico tutti i giorni. Questo sicuramente sarebbe un grosso vantaggio, soprattutto nelle grandi città. Immaginati anche l'impatto immobiliare nel momento in cui anche solo un terzo della forza lavoro decidesse che periodicamente lavora da casa, e gli edifici ad uso ufficio potrebbero essere riorganizzati radicalmente. Sì, un impatto in questo caso negativo. Diciamo, le risorse si riallocherebbero, poi magari si deciderebbe di fare degli spazi sociali, si deciderebbe di non dover impiegare i soldi da quella parte ma da un'altra parte. Sì, riorganizzando, certo. Allora, altri vantaggi che tu vedi? Il tecnomadismo, come la capacità di utilizzare l'infrastruttura tecnologica per vivere e lavorare ovunque nel mondo, si sta diffondendo e ci sono delle famiglie che si organizzano proprio attorno a queste possibilità. Io partecipo alle comunità di tecnomadi da diversi anni. È un esempio che a me è molto colpito, è di una famiglia californiana che nel 2007, quindi in un momento buono, prima della crisi, ha venduto la propria casa, padre, madre, web designer, avvocatessa, e con una bambina che allora aveva 3 anni, si sono messi a viaggiare nel mondo. Hanno fatto un anno o due in Spagna, hanno fatto un anno o due in Cina, e oggi la bambina ha 9 anni, parla fluentemente 3 lingue, hanno visto culture infinite e hanno partecipato ad esperienze che non avrebbero avuto, astraendosi, diciamo, dal modello americano tradizionale. Lì questa scelta è ancora più radicale e rivoluzionaria, del possesso materiale, proprio per invece rivolgersi alle esperienze culturali. Sì, interessante questo trend, anche se da un certo punto di vista, dico, per fortuna rimarrà una nicchia di lavoratori, perché immaginiamo se una grande città, in una grande città come Milano, la maggioranza delle persone cominciasse a fare questo, si disgregherebbe il concetto di comunità. Certo, probabilmente se ne creerebbero altri diffusi in tutto il mondo. E quando vivevamo in villaggi, sì, e la possibilità di comunicazione e di trasporto era talmente limitato da sfociare esclusivamente nelle favole, dove il settimo figlio se ne va e fa grandi avventure e sposa la principessa, perché nella realtà non avveniva mai. Sì, non ci si spostava. Sì. Allora i tuoi interessi erano necessariamente quelli degli interessi degli altri che vivevano accanto a te. Oggi invece abbiamo la possibilità di creare comunità aggregando interessi che non sono più locali, e le città sono quelle unità sociali che permettono la prossimità fisica di gruppi di interessi ricchi, vari, diversi fra di loro. Quindi è garantito che questa tendenza si diffonderà e creerà città sempre più interessanti, ed è per quello che oggi New York o Singapore o San Francisco o Milano o Londra possono essere così effervescenti, proprio perché tra comunicazione e trasporti aggregano gruppi di interesse ricchi e stimolanti. Questo è un altro motivo per cui è necessaria un'infrastruttura in banda larga che arrivi ovunque, perché pensiamo anche oltre al viaggio, anche la possibilità di rimanere o di trasferirsi in zone del paese un po' più belle rispetto ad alcune città, che ne so, in campagna, in collina, in montagna. Vedi anche degli svantaggi rispetto anche alla tua esperienza all'interno dell'organizzazione di DotSub? Una prossima sfida personale, e non ho ancora risolto la cosa, è che vorrei pagare le persone lo stesso stipendio indipendentemente dal costo medio della vita del loro paese di residenza. Oggi è quasi universale offrire uno stipendio più alto per qualcuno che vive in America rispetto a qualcuno che vive in Cina. E uno direbbe, ci mancherebbe, in Cina la vita costa molto meno, perché dovresti pagarlo di più? Sì. Beh, lo vorrei pagare di più proprio perché io non voglio che lui necessariamente viva in Cina se vuole cambiare. E collegare il mondo attraverso questa rete di possibilità anche economiche ancora di più, in modo ancora più stretto, secondo me è una bella sfida, ed è quello che vorrei riuscire a realizzare nei prossimi anni. Cioè, vorresti fare il roaming dello stipendio? Già oggi esistono dei siti di comparazione che dicono, per i tecnomadi, in base a criteri di qualità della vita, costo di un letto, di mangiare, sì. Banda larga, qualità dell'aria, vicinanza dell'aeroporto internazionale e altri criteri, una graduatoria proprio delle città. E i tecnomadi quindi possono riferirsi a questa graduatoria per scegliere dove vivere. Al primo posto c'è Chiang Mai in Thailandia. Pensa un po'. Mm. E dove per 400 euro circa puoi mangiare, dormire, lavorare in uno spazio di coworking e abbonarti alla banda larga, 400 euro al mese. Tutto compreso. È un clima bellissimo, una cultura elevata, eccetera. E Milano, insomma, non è messa benissimo, e sta a noi anche. C'è anche l'indicatore cibo, perché qua vinciamo alla grande. Che è importante, non è assolutamente importante. Anzi, io penso che se noi riuscissimo a garantire un'infrastruttura di un certo tipo per connettersi a internet, potremmo attirare in Italia, dove si vive molto bene, moltissimi lavoratori che possono godere di questi vantaggi. È proprio così. Io in effetti, facendo il pendolare tra New York, California e Milano ogni 2 settimane circa, porto spesso qua delle persone, anche recentemente ha passato qua qualche settimana il Chief Technology Officer, il capo della tecnologia di DotSub, proprio per esporlo alla cultura italiana, al cibo italiano e promuovere l'Italia nel mondo. Se ha funzionato lo vedremo di nuovo. Infatti ha già detto che vuole tornare. Molto bene, Davide, grazie per essere stato con noi, ti auguro buon lavoro e naturalmente anche buon viaggio. Grazie a te. E così chiudiamo questa puntata di 2024, come sempre grazie per la vostra attenzione, speriamo di aver dato alcuni spunti di riflessione interessanti, soprattutto in entrambi i casi, sia per quanto riguarda il lavoro remoto, sia per quanto riguarda il controllo della rete internet. Questo è un tema vastissimo, con un dibattito molto acceso, magari torneremo sull'argomento. Scriveteci i vostri pareri e i vostri commenti, anche se desiderate riascoltare cose di questo genere anche con altre voci. Naturalmente non siamo legati a poche voci, anche voci di diverso genere sono utili da ascoltare. Bene, io sono Enrico Pagliarini, grazie per la vostra attenzione, grazie per aver ascoltato questa versione podcast del nostro programma. Torniamo venerdì tra le 22 e le 23, la domenica tra le 13 e le 13:30, grazie ad Anita Panizza che ci aiuta durante la settimana e come sempre un saluto e appuntamento alla prossima settimana. 2024. 2024. 2024. 31 seconds and we're...